Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Ultimo appuntamento oggi prima delle feste natalizie con SoInfo, la rubrica che ogni settimana vi accompagna approfondendo i temi della salute e della società con uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine. Proseguendo con la tematica della medicina d'urgenza e in particolare con quella dei più recenti interventi migliorativi del servizio di pronto soccorso, oggi ritroviamo il direttore generale dell'USL 9, Francesco Benazzi, per parlare del pre-pronto soccorso, uno spazio riservato ai codici bianchi che vede l'ospedale Ca' Foncello apripista in Veneto. Noi abbiamo voluto sperimentare un progetto che vada soprattutto a ridurre cose, i codici bianchi e i codici verdi. Perché? Perché sono quelli che a livello proprio di pronto soccorso aspettano di più per diversi motivi, perché ovviamente arrivano direttamente in pronto soccorso perché preferiscono scavalcare la guardia medica, perché sperano di trovare una risposta più veloce in pronto soccorso, eccetera, eccetera. Cosa abbiamo fatto? Siccome questi codici sono sostanzialmente codici che dovrebbero essere gestiti dal medico di famiglia, noi abbiamo creato degli ambulatori a fianco del pronto soccorso gestiti da medici di famiglia, cioè da medici continuità assistenziale, i quali vanno a intercettare queste esigenze, danno la possibilità all'utente di essere visto subito e anche dimesso subito, in quanto il codice non è così impattante. Quali sono le tre strade? Allora, la prima strada: il paziente viene visto dal medico di famiglia che è in pronto soccorso con i codici bianchi, viene sostanzialmente, quindi se è una patologia, gli viene data una terapia con ricettario, oppure viene inviato il giorno dopo il suo medico di base, oppure viene mandato in ambulatori specialistici entro 10 giorni con un canale preferenziale e là sarà visto dallo specialista. Queste sono le tre opzioni che abbiamo visto funzionano e vanno a ridurre sostanzialmente del 40% i tempi di attesa per i codici bianchi. Rispetto a questa impostazione è chiaro che chi ne trae i maggiori benefici? Le persone più deboli, le persone più fragili, quindi gli anziani, i bambini e le donne in gravidanza. Perché? Perché in questo modo l'accesso, per esempio, alle donne in gravidanza è diretto invece in reparto, viene visto subito dal ginecologo. Il paziente anziano viene visto dal medico dell'ambulatorio che decide se inviarlo ovviamente a fare degli esami, in questo caso se ci sono patologie chiare, oppure gli viene fatta la prescrizione e poi mandato a domicilio oppure dal suo medico. A risentirci a metà gennaio con una nuova tematica e buone feste a tutti dalla redazione di SoInfo. SoInfo, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.